Buonasera a tutte e tutti, terza giornata del Festival Contrattacco, in streaming e in diretta grazie ad Asia Città Fujiko. Questa cosa, insomma, ci teniamo a dirla, che appunto ci stanno ascoltando anche persone in altre città, in altri paesi, eccetera. Ieri un botto di gente, abbiamo calcolato che non potevano esserci meno di 500 persone, infatti era una marmellata umana. Durante la presentazione di Proletkult, nell'ultima mezz'ora abbiamo respirato solo anidride carbonica perché l'ossigeno era completamente esaurito, infatti eravamo duramente provati. Allora riprendiamo Contrattacco con la presentazione del progetto Nicoletta Burbacchi. Nicoletta Burbacchi è un gruppo di lavoro su bufale storiche neofasciste, su inquinamento della memoria pubblica, su manipolazione delle voci di Wikipedia da parte appunto di fascisti e affini alle voci relative a fascismo, resistenza, seconda guerra mondiale, antifascismo, eccetera. E esiste dal 2012, è nato da una discussione sul nostro blog, il blog di Wuming Jap, e adesso vi racconteranno appunto in questi anni cosa si è fatto e presenteranno una guida, un ebook su come riconoscere le bufale storiche in rete, che è un ebook, però è stato stampato ad hoc anche su carta, e ce n'è un'edizione su carta autoprodotta sul banchetto, e si chiama Questo chi lo dice è perché, è proprio un vademecum su come riconoscere e disinnescare le bufale storiche dei fascisti. Finita questa presentazione ci sarà la presentazione del primo numero, che non è nemmeno ancora uscito in libreria, però qui si trova già da venerdì sera appunto a disposizione in anteprima per l'acquisto, il primo numero di Jacobin Italia, appunto l'edizione italiana della famosa, insomma, rivista di sinistra, rivista socialista, marxista, eccetera, degli Stati Uniti, che sta aprendo delle edizioni con varie modalità, aprendo delle edizioni anche in altri paesi, e questa è stata la prima edizione estera di Jacobin in essere avviata, grazie a Edizione Allegra, un collettivo redazionale di compagni e compagni che si è formato alla bisogna. Dopodiché ci sarà l'aperitivo rinforzato, non è stato chiamato cena perché appunto non è una cosa apocalittica. Ieri sono stati serviti, se ho capito bene, più di 300 pasti, quindi bisogna dire veramente un grande grazie alla macchina poderosa dei cucinieri e delle cuciniere del VAC 61. Perché... Dopo l'aperitivo rinforzato, musica, ieri sera appunto si è ballato, c'era il DJ set con Bologna Calibro 7 pollici, stasera invece c'è un gruppo che suona, c'è un concerto, è un ensemble, un trio che lavora su musiche anatoliche, appunto turche, curde, eccetera, eccetera, e io la prima sera, per paura di pronunciarlo male e sputazzare con la mia S ferrarese, l'ho fatto pronunciare a qualcun altro, stasera invece lo dico io, sicuramente lo scasso, comunque è Özgür Karagüneş Trio. Grazie. Nicoletta Burbacchi. Buonasera. Allora, siamo tre rappresentanti di questo collettivo che si chiama Nicoletta Burbacchi. Come dicevamo, è un collettivo, è un gruppo di lavoro che si occupa di sbugiardare bufale fasciste che girano su internet o su Wikipedia, in generale dimmi il nome in italiano. Dimmi in francese, capiscono. Insomma, delle bufale che sono state appunto messe in piedi da gruppi fascisti. Questo gruppo è nato nel 2012 da una discussione su JAP. Era una discussione su appunto il Sacrario di Affile, che era dedicato a Rodolfo Graziani. E appunto nella discussione che è seguita questo post su JAP, qualcuno ha fatto notare come Wikipedia trattava questo personaggio, che era un gerarca fascista, come se fosse un eroe. E quindi da lì si è deciso di formare un gruppo di lavoro chiamando volontari tra i Jumpster per appunto presidiare queste voci di Wikipedia Italia che erano un po' in mano a neofascisti, che quindi ti presentano eventi storici dandogli un punto di vista di destra. E l'idea iniziale era di scrivere un libro bianco, un po' una procedura, un libro di istruzioni, dice, per come approcciarsi a Wikipedia, come leggere le voci, capire se ci fosse un punto di vista che era imposto da chi, un punto di vista politico imposto dai redattori, e come agire per fare in modo di ripristinare la verità storica. E quindi si è partito chiamando un po' a raccolta chi aveva voglia di fare questo lavoro. Noi che eravamo nella discussione abbiamo detto subito io, si è un po' raccolto un primo nucleo e si è iniziato a lavorare su alcune voci di argomento storico controverso, quindi le guerre coloniali, le foibe, il confine orientale, tutte voci che erano, in cui c'era questo zoccolo duro di utenti di Wikipedia di destra che imponevano il loro punto di vista. E quindi all'inizio è stato anche divertente perché molti di noi eravamo partiti con la buona volontà ma senza sapere nulla di quello che era poi Wikipedia, e abbiamo scoperto questo mondo dove c'è, cioè, che un po' sembra un po' una setta, anche perché si parla un linguaggio specifico a quell'ambiente, con delle parole che non sono italiane né nessuna lingua, tipo, non so, si parla di POV che vuol dire punto di vista, quindi rollbaccare, revertare. E quindi già subito devi iniziare a imparare un nuovo linguaggio, iniziare a capire i meccanismi di cui poi vi parlerà anche Tommaso, perché poi questo libro bianco alla fine non c'è stato perché siamo partiti su altri argomenti collegati, altre attività, però abbiamo comunque fatto questa guida, che è una guida, l'abbiamo chiamata Questo chi lo dice e perché, e parla anche, adesso poi ve la presenterà Tommaso, ma parla anche di Wikipedia, dei meccanismi, di come funziona Wikipedia, di chi scrive su Wikipedia, delle varie figure che partecipano alla biblioteca, all'enciclopedia virtuale, e insegnando appunto a riconoscere le fonti che sono credibili da quelle no, e come si procede in questa cosa. E soprattutto uno degli intenti di questo gruppo non era di divulgare l'informazione che Wikipedia è il male, che non bisogna usarla perché c'è comunque quello che c'è scritto, da notizie infondate o sbagliate, ma è appunto di migliorare l'enciclopedia, perché comunque come gruppo riteniamo che sia uno strumento importante, democratico, e l'intento è quello di migliorarlo. Questo era l'inizio di Nicoletta Bourbaki, che non si chiamava ancora così, si chiamava Fascisti su Wiki all'inizio. Poi abbiamo un po' ampliato gli orizzonti, a un certo punto vedevamo che appunto scrivendo su Wikipedia, intervenendo sulle voci, ci scambiavamo comunque un sacco di informazioni, ci venivano fuori discussioni lunghissime, E a un certo punto abbiamo detto, ma perché non scriviamo un post su, su questa cosa? E abbiamo, era uscito un primo post a firma di uno di noi, Salvatore, che era una recensione di un libro scritto da neofascisti, secondo cui Wikipedia sarebbe presidiata dalla sinistra. Quindi noi abbiamo recensito questo libro dimostrando esattamente il contrario sulla base di tutto quello che avevamo osservato. E da lì, insomma, c'era stato interesse per questa cosa, abbiamo scritto altri post e a un certo punto sono entrati nel gruppo storici, ricercatori, insegnanti, cioè gente comunque con competenze molto puntuali che potevano permetterci di fare inchieste proprio anche molto più anche divulgabili di quello che stavamo facendo un po' non dico in segreto, ma comunque all'interno del gruppo. E quindi abbiamo iniziato poi a produrre inchieste sul confine orientale, sulle foibe, su svariati argomenti di cui poi adesso vi dettagliamo un po'. E quando siamo usciti poi, credo su un articolo sull'uso distorto delle immagini, cioè delle foto fake, le chiamiamo, delle foto che sono, cioè, che riproducono ovviamente immagini vere, ma usate in modo distorto per rappresentare altre cose, ad esempio un esempio è quello di la fucilazione di alcuni partigiani, che viene presentato ogni anno come se fossero fucilazioni di foibatti da parte dei partigiani, quindi proprio capovolgendo l'oggetto e la vittima e l'assassino, cioè sì. E in quell'occasione è stato pubblicato un articolo di Piero Curit, storico triestino, in collaborazione con Nicoletta Bourbaki. E il nome, e quindi abbiamo scelto un nome appunto per uscire pubblicamente come gruppo collettivo. E Nicoletta Bourbaki è un nome che abbiamo scelto perché si ispira a Nicolas Bourbaki, a un collettivo di matematici francesi. Noi abbiamo voluto dargli un nome femminile perché comunque siamo un gruppo misto e quindi abbiamo scelto questo nome. E poi insomma abbiamo pubblicato svariate cose e adesso appunto presentiamo questa guida autoprodotta. Adesso passo la parola a Tommaso. Allora, noi in questa guida abbiamo provato un po' a raccogliere, come dire, quello che abbiamo imparato da questo lavoro di debunking, perché crediamo che bisogna uscire dal fact-checking molto tecnicistico, molto preciso su ogni singolo argomento che di solito viene praticato. Cioè pensiamo che la possibilità di accorgersi che ti stanno raccontando una narrazione tossica debba essere a disposizione di tutti e che chiunque possa rendersi conto che gli stanno raccontando qualcosa che non è vero o che è raccontato in modo assolutamente unilaterale. Il caso, per esempio, di Giuseppina Gersi. Noi abbiamo visto i principali giornali italiani, tra cui il Corriere della Sera, eccetera, riprendere paro paro, ma proprio versela come acqua fresca, quello che riportavano dei blog neofascisti. Ma proprio roba che non stava in piedi, che soltanto guardando con attenzione i video che questi postavano non stava in piedi. Questi l'hanno ripresa. Perché? Non è che serviva, non è che servivano specifiche competenze storiche, non dovevi essere uno storico della resistenza e della violenza post bellica per renderti conto che quella storia che ti stavano raccontando era unilaterale, faticava a stare in piedi, eccetera. Perché non si sono posti alcune semplici domande. Chi mi sta raccontando questa cosa? Con che scopo? A chi si sta rivolgendo? Ci sono o non ci sono delle fonti? Quali fonti sono? Chi le ha conservate? Sono domande, in fondo, semplici,

che è quello per il quale sono entrato in Nicoletta Bourbaki nel 2015. Io ho una formazione giuridica, sono entrato in Nicoletta per verificare la tenuta dei nostri scritti da un punto di vista del diritto penale e delle querele per diffamazione, delle cause civili per diffamazione, perché poi ovviamente uno quando si mette, una cosa che succede spesso al di là di Wikipedia è che quando una delle strategie della destra è cercare, una delle strategie dei potenti in realtà, è quella di cercare di tacitare l'interlocutore minacciando ritorsioni giuridiche, che significa sostanzialmente minacciando l'interlocutore nel suo patrimonio, fondamentalmente nel suo patrimonio, visto che la maggior parte dei casi per diffamazione non si finisce in carcere. Ora, ovviamente, diciamo, quando c'è qualcuno che è economicamente molto potente, che si pone contro qualcuno che invece è un precario, è un disoccupato, è un attivista, la minaccia della querela per diffamazione funziona molto. Io ho scritto un post su questo nel 2014, facendo tutta una serie di studi di caso, e per quel motivo sono entrato in Nicoletta Bourbaki, perché noi abbiamo fatto tutto un lavoro sul linguaggio. Cioè, una delle domande che noi ci poniamo è: come facciamo a essere taglienti, a essere radicali nella critica senza rinunciare, cioè anzi, come facciamo a essere taglienti senza prestare il fianco anche solo alle minacce di querele o di cause civili, citazioni in giudizio per diffamazione? I nostri interlocutori sono molto suscettibili, minacciano a ogni piè sospinto. La prova dell'efficacia del nostro lavoro è che in 6 anni di lavoro collettivo abbiamo ricevuto minacce in media una volta a settimana, nessuna si è mai tradotta in una causa civile o in un processo penale. Quindi vuol dire, che alla prova dei fatti tutto quello che abbiamo scritto è stata una superficie liscia contro cui non poteva appigliarsi chi cercava di metterci in difficoltà su quel terreno. Allora, noi ci siamo fatti tutta una serie di domande anche sul come scrivere i post e, diciamo, come presentare all'esterno il nostro stile di, come affinare il nostro stile di scrittura per essere imprendibili anche da questo lato. Ovviamente una delle cose belle che succedono nel lavoro collettivo è che tutta la fase di ricerca e di scrittura per le nostre pubblicazioni è un momento di autoformazione, quindi molte delle cose che io adesso dico le ho imparate stando dentro Nicoletta Bourbaki. E oggi abbiamo fatto la nostra riunione galattica, cioè la nostra assemblea, nella quale è confluita una buona parte dei componenti di Nicoletta Bourbaki, e questa dell'autoformazione è stata una delle cose che è emersa più di frequente. È stata un'esperienza arricchente per tutti i membri del collettivo. Una delle cose che ho imparato è quali sono le varie strategie, quali sono le varie tattiche che gli utenti di Wikipedia utilizzano per arrivare a una determinata stesura delle voci. Posto che noi ci siamo sempre detti Wikipedia è un obiettivo strategico, perché? Ma perché da qualunque punto di vista lo si guardi, se uno ha bisogno di un'informazione, il primo risultato in cui inevitabilmente si imbatterà è Wikipedia, se quell'informazione si ricollega a una voce dell'enciclopedia libera. Questo dato è imprescindibile, quindi noi abbiamo cercato di non essere né apocalittici e quindi non porci come chi dice no, Wikipedia è il male, quindi bisogna starne lontano a tutti i costi, né integrati, quindi noi ovviamente non pensiamo che il pilastro su cui si regge Wikipedia, quello della neutralità, sia un pilastro, sia un principio ideologicamente accettabile. Perché? Ma perché siamo materialisti. Quindi noi sappiamo benissimo che Wikipedia è un campo di forze, come diceva Tommaso poco fa, è un luogo dove si danno i conflitti, solo che a differenza della destra che pensa che vive del mito della cricca e quindi pensa che le voci siano segretamente pattugliate da un gruppo di amministratori di sinistra, noi facciamo un'analisi delle modalità di scrittura delle voci, cerchiamo di individuare tutte le strategie discorsive, tutte le tattiche che gli utenti più attivi su Wikipedia, portatori di un punto di vista neo-irredentista, nazionalista, in alcuni casi tout court fascista, cercano di nascondere dietro il dogma indimostrato della neutralità del punto di vista. Allora, per esempio, noi abbiamo scritto un post cofirmato da un nostro compagno attivissimo su Wikipedia, Salvatore Taglia, e da Nicoletta Bourbaki. Apro e chiudo parentesi, una delle critiche che spesso ci vengono mosse, a volte in buona fede, altre volte in malissima fede, è: ma voi fate critica su Wikipedia perché non vi impegnate per cambiarla? Noi ci impegniamo per cambiarla, tant'è che ci sono dei nostri compagni che stanno su Wikipedia e che dichiarano la loro appartenenza a Nicoletta Bourbaki e che fanno un lavoro preziosissimo, cioè proprio si sporcano le mani cercando di migliorare le voci che ci interessano, le voci su cui abbiamo fatto ricerca. Allora, quali sono? Cerco di fare un po' una panoramica delle tattiche che abbiamo visto utilizzare su Wikipedia. Allora, nel post sulla voce di Via Rasella, firmato da Salvatore e da Nicoletta, abbiamo visto questo, che la bibliografia, se uno va a vedere la bibliografia della voce attentato di Via Rasella, che per un certo periodo si è chiamata attacco di Via Rasella, vede citate le principali le pubblicazioni scientificamente più accreditate e le pubblicazioni della propaganda neofascista. Di per sé niente di male, cioè, qualsiasi lavoro di uno storico cita in bibliografia fonti che poi critica nel testo. Ora, il problema è, e in larga parte è ancora così, ma in precedenti stesure della voce su Via Rasella, questo fenomeno che sto per descrivere era ancora più accentuato, nel corpo della voce, nel testo, le uniche fonti ad essere realmente utilizzate erano quelle della propaganda neofascista, erano le stesse pubblicazioni che cominciarono a circolare in ambienti repubblichini nel marzo 1944 e che complici ex repubblichini poi riciclatisi pubblicisti come Giorgio Pisanò hanno continuato a circolare, hanno inquinato l'immaginario, hanno inquinato il parere che l'opinione pubblica ha sui fatti di Via Rasella. Tant'è che poi quella propaganda, quella stessa propaganda, finisce sul Corriere della Sera e ci finisce per il tramite di uno dei principali responsabili, anzi direi dell'iniziatore della strategia riabilitatrice del fascismo e della figura del duce, ossia Montanelli. Questa vulgata propagandistica repubblichina che ci portiamo, i cui cascami, diciamo, inquinano il dibattito pubblico ancora oggi, è quella secondo cui se i partigiani si fossero consegnati, si sarebbe evitato l'eccidio delle forze ardeatine. Questa diceria, questo falso storico ha cominciato a circolare per un articolo dell'Osservatore Romano pochi giorni dopo l'eccidio di Via Rasella, secondo il quale il comando tedesco a Roma avrebbe affisso un manifesto nel quale si invitavano i partigiani a consegnarsi. Questo è semplicemente falso. Nessun manifesto fu mai affisso. Tant'è che poi l'eccidio delle Fosse Ardeatine divenne noto per la famosa frase: l'ordine dell'eccidio è già stato eseguito. Quindi se l'ordine è già stato eseguito e viene reso noto, vuol dire che nessun manifesto l'annunciava. Quindi questa semplicemente era, l'eccidio delle Fosse Ardeatine era una rappresaglia contraria alle convenzioni internazionali che regolano anche il diritto di rappresaglia. Questa roba è diventata senso comune. Diciamo, ovviamente ci sono delle opere serie che l'hanno smontata, una su tutte, quella, diciamo, eponima del comunicato diffuso dal comando tedesco, cioè l'ordine è già stato eseguito, di Alessandro Portelli. Se uno andava a vedere nella cronologia delle diverse stesure della voce su Via Rasella, della voce Wikipedia su Via Rasella, vedeva Portelli citato in bibliografia, ma di fatto Portelli non veniva mai utilizzato nel testo. Questa è una delle strategie, cioè mettere in bibliografia più o meno tutto il disponibile, ma poi fare un uso capzioso delle fonti e utilizzare soltanto quelle che comproverebbero, quelle che confermerebbero il punto di vista che si vuole spingere, in questo caso il punto di vista degli apologeti dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. La vulgata antipartigiana su Wikipedia molto spesso si nutre di questo, cioè di far finta di citare tutte le fonti e poi in realtà utilizzarne soltanto alcune. Un'altra strategia che viene utilizzata, noi l'abbiamo riscontrata in particolare rispetto a un utente il cui nome, il cui pseudonimo su Wikipedia è indicativo, perché questo si faceva chiamare José Antonio. Allora, cosa faceva questo? Allora, questo era uno discretissimo, presidiava, teneva d'occhio tutto un cluster di voci che avevano a che fare con l'immediato dopoguerra e con i 20 mesi della liberazione, oppure con biografie di fascisti, insomma, questi erano i temi che gli interessavano. Su queste voci apportava degli edit, cioè degli interventi minuscoli, piccoli cambiamenti, spesso semplici sostituzioni di un solo termine, il cui effetto combinato era quello di stemperare il punto di vista, diciamo, o meglio, non stemperare niente, stemperare l'efferatezza dei fascisti, questo sì, laddove c'era strage si utilizzava un termine più neutro, laddove c'era eccidio si sostituiva con morti, capite? Interventi di questo tipo, apparentemente minuscoli, che iterati di continuo producevano però un effetto per cui i fascisti passavano quasi sempre, se non per degli innocenti, per qualcuno che aveva reagito alle provocazioni dei partigiani. Il punto di vista di José Antonio, che lui cercava di accreditare su Wikipedia, era quello per cui i fascisti non avevano mai cominciato per primi. Gli edit di questo utente sono stati letteralmente decine di migliaia, tutti di questo tenore. Poi questo era uno che nelle discussioni accanto alle voci si presentava sempre, a differenza di altri utenti, come ipereducato, come apparentemente misurato, mentre altri utenti, come Presbite per esempio, sono inclini allo sbrocco e hanno un egotismo sfrenato. Questo José Antonio era interessante da studiare perché lui non aveva queste caratteristiche, quindi non sembrava uno con un caratteraccio. Però capite che tutti editi di questo tipo, distribuiti su un cluster di voci significative per lui, producevano questo effetto di stemperamento dei crimini fascisti. La cosa interessante è che quando noi abbiamo pubblicato in due puntate lo studio di caso sul suo modo di agire su Wikipedia, questo è sparito. Ha smesso di editare, a un certo punto ha scritto, non mi ricordo più dove, mi sembra al bar di Wikipedia. Vado in Africa. Ha scritto, vado, scusatemi, in questi giorni non riesco più a connettermi perché sono in villaggi sperduti in Africa. Dove non c'è anche Beltroni, che non l'ha fatto. Dove non c'è la connessione, quindi riuscirò a connettermi di rado. Questo è stato l'ultimo messaggio che lui ha lasciato su Wikipedia, dopodiché è sparito. Quindi voi capite che noi cerchiamo un po' di combinare le due cose, cioè di agire, una cosa che non ho detto, che altrimenti non fa capire la conclusione alla quale sto arrivando, sulla voce di Via Rasella non soltanto noi abbiamo fatto la critica dall'esterno, ma alcuni di noi, soprattutto Salvatore Talia, hanno battagliato scrivendo e riscrivendo la voce, cercando di introdurre gli studi scientificamente più appropriati all'interno del corpo della voce. Questa stessa cosa, cioè le modalità di svolgimento, le diverse fasi di stesura, poi le abbiamo raccontate anche all'esterno. Quindi noi cerchiamo di agire in due modi, stando all'interno finché è possibile, no, perché poi capite che se noi assumiamo, come facciamo effettivamente, che Wikipedia funziona come funziona il resto della società, cioè funziona in base ai rapporti di forza, quando c'è un gruppo di utenti che si coordina per presidiare una voce e impedisce qualsiasi tipo di intervento dall'interno, se in quel momento chi onestamente, dichiaratamente, porta un punto di vista antifascista, si trova in minoranza, è destinato a soccombere. Allora lì è il momento in cui si rende necessaria la critica dell'ideologia di Wikipedia. E questa cosa non si può fare all'interno di Wikipedia, bisogna per forza uscire, bisogna per forza dare visibilità pubblica a un dibattito che altrimenti resterebbe confinato entro il perimetro di Wikipedia, ma neanche conosciuto a tutti gli utenti di Wikipedia, conosciuto agli aficionados, a quelli che sanno i meccanismi, cioè molti non sanno nemmeno che ci sono degli strumenti che ti permettono di controllare le varie fasi, le varie stesure di una voce, la cronologia, la discussione, eccetera. Ecco, noi abbiamo cercato di rendere pubblica questa cosa, di spiegare pubblicamente come funziona Wikipedia, quali sono, accanto al corpo della voce, le possibilità di consultazione che chiunque di noi ha, e controllando quelle si vede effettivamente come si forma la voce. Ecco, quelli che sostengono che Wikipedia è governata da una cricca di amministratori di sinistra hanno anche tutto l'interesse a che il dibattito interno a Wikipedia resti interno a Wikipedia e tacciano chiunque parli in pubblico di quel che succede dentro Wikipedia di essere un nemico del progetto e dell'enciclopedia libera, mentre ovviamente è vero il contrario. Cioè, se un'enciclopedia è veramente libera, allora deve essere trasparente verso l'esterno. Ecco, questa cosa noi abbiamo cercato di dimostrarla. Per adesso mi fermo qui, grazie. Interventi. Senti. Ok, a questo punto apriamo il dibattito, quindi se ci sono interventi, il microfono è aperto. Sì, ti dico una cosa. Prego. Allora, intanto vi ringrazio perché io che insegno ho usato associato ai vostri studi proprio a scuola, tutta la questione per esempio delle foibe con cui ci veramente ci riempiono di cazzate, ho potuto proprio usare in maniera molto circostanziata i vostri studi, quindi utilissimo, cioè siete veramente un punto di riferimento che cerco di diffondere. Poi vi volevo dire però una cosa che ho trovato su Wikipedia, alla voce femminismo italiano, così ve lo segnalo anche. Quando uno cerca femminismo italiano trova il divorzio, l'aborto, si parla di Carlalonzi, eccetera, e poi a un certo punto dice: il femminismo italiano è diventato più importante di recente, in particolare durante l'amministrazione dell'ex presidente del Consiglio Berlusconi, con una particolare attenzione all'opposizione nei confronti della crescente oggettivazione delle donne nei programmi televisivi nazionali e nella politica. Quindi questa cosa a noi veramente, cioè, era evidente per tutti che fosse così, no? È incredibile, cioè c'è, cercatelo sul femminismo italiano, me l'ha segnalato un'amica, io vabbè, abbiamo messo questa cosa su Facebook, poi effettivamente non avevo pensato di segnalarvela, però adesso ve la segnalo. No, ma c'è. Grazie. C'è un lavoro enorme che c'è da fare su, appunto sul sessismo che c'è anche in Wikipedia, su tutte le voci che riguardano le questioni di genere. È una cosa di cui abbiamo discusso, non abbiamo ancora approfondito, ma è sicuramente un argomento importantissimo da portare avanti, ne siamo coscienti. Grazie. Ecco, piccola segnalazione a proposito di questa guida che è in vendita di là ad offerta libera per 5 euro. Una offerta cosa libera però. Però volevo segnalare che noi qui suggeriamo anche un esercizio di web quest. Cioè suggeriamo sia una lista di domande da porre alle fonti primarie, ma anche un esercizio di web quest. Cioè prendere 4 siti, sceglierli. Di solito l'esercizio che faccio io sul lavoro, io lavoro nella didattica di un museo, è prendere una voce di Wikipedia, un sito completamente inaffidabile, chiaramente fazioso, 2 voci della Treccani, una voce della Treccani attuale e una voce della Treccani degli anni 30, perché sono online anche quelle, sono molto comode, perché fai vedere anche l'importanza di domandarti in che contesto è stata realizzata una voce, anche se alla bibliografia, anche se è sul sito della Treccani, e sottoporle a una lista di domande. Ovvero chi è l'autore del saggio, chi è l'autore del sito, qual è lo scopo del sito, ci sono le fonti, ci sono link esterni, eccetera. Questo esercizio è riportato anche qui e assolutamente nelle scuole è necessario abituare la gente ad avere una visione critica delle fonti, che è anche educazione al conflitto, cioè abituarti chi lo dice. Per quale scopo? Tutti hanno uno scopo e questo è normale. Il punto è, stanno o non stanno all'interno di un minimo di regole dell'onestà intellettuale? E quindi ragionare in questi termini. Ecco, penso che sia fondamentale lavorare da questo punto di vista in tutti i luoghi della divulgazione e dell'educazione. Scusa, volevo dire una cosa io, è una mia curiosità. Qualche mese fa, per curiosità, ho letto un libro di Giovanni Fasanella, che è un giornalista, che io sappia, che ha scritto su tutti i giornali, dall'Unità al Corriere della Sera, alla Stampa, L'Espresso, che si chiama Il Padre Moro. Sono incuriosita perché io negli anni ero vicino all'aria, così conoscevo molti prigionieri politici. Questo scrittore, la sua tesi fondamentale di questo libro è che tutta l'operazione Moro è stata messa in piedi dai servizi segreti inglesi, che odiavano Moro perché era troppo comunista, e siccome gli inglesi sono notoriamente anticomunisti, quindi tutta l'operazione e l'organizzazione armata del PR era tutta etero-diretta. Allora, io alcune cose che lui dice so che sono delle bufale enorme, no? Perché appunto conoscendo. Lui però tutte le volte che parla di queste cose cita gli atti dei servizi segreti inglesi, come si dice, portati in pubblico dopo diversi anni. E allora io mi sono chiesta, ma come si fa? Perché lui cita delle fonti, ma ad esempio sono fonti che per me è impossibile per esempio andare a reperire perché sono in Inghilterra, no? e quindi solo che lui con queste citazioni avalla tutti i suoi discorsi. Come si ci fa a difendere di fronte a questa cosa? Vado io? Tomà, sì, vai, sì, tu, vai. Allora, io non sono un esperto dell'argomento, neanche ho letto quello che scrive questo signore. Dico semplicemente una cosa: alle fonti si può far dire qualunque cosa. José Antonio era un maestro nel prendere testi sulla guerra civile spagnola, scritti da autori di cui ho la massima stima, Beaver, Preston, eccetera, e fare degli abilissimi tagli e cuci, tagliando alcune frasi. Allora, se io ti dico, ma questa cosa qui non è possibile che le BR siano riuscite a fare un agguato di quel tipo lì, perché era una cosa, perché comportava gente troppo ben addestrata, e ti cito dei rapporti di servizi segreti inglesi in cui si dice Moro è contrario alla nostra politica, questo è un tagliare e cucire le fonti. Cioè, io sono convinto che certo è meglio andare a vedere le fonti, perché poi questi signori falsificano anche, però già vedendo il finalismo, come nei libri di storia, ancora oggi ci sono dei libri delle superiori, delle medie addirittura, ma editi nel 2014 per la Mondadori, che ti dicono la Francia e l'Inghilterra erano già degli stati-nazioni alla fine della guerra dei cent'anni, mancavano ancora 500 anni perché l'Italia diventasse uno stato-nazione. Cioè, uno lo legge, uno che ha un minimo di senso critico, voglio dire, lo legge e lo butta nel cesso, perché il finalismo nella storia, chi ti diceva che doveva andare così per forza? Cioè, che cos'è, una rivelazione divina? Cioè, e quindi ragionare in questi termini sul tagli e cuci sulle fonti, io credo che facendo un'analisi del testo si possano già individuare i punti deboli. Nello specifico, sul caso Moro, consiglio di vedere su YouTube il video del professor Barbero, esatto, che di solito è uno storico militare che si è occupato al Festival della Mente di Sarzana, mi pare dell'anno scorso, ha fatto 3 lezioni sulle rete clandestine, una sulla rete di Sorge in Giappone, una sulla rete di Gap di Via Rasella e una sulla rete delle BR che porta al sequestro di Moro e poi al suo omicidio, e Barbero distrugge proprio tutte queste teorie del complotto. E lo fa con una precisione, con una logica implacabile, anzi dimostra le biografie dei militanti BR che erano effettivamente degli operai proletari, cioè spazza via tutta quella serie di discorsi che ci sono attorno al caso Moro, tutto questo complottismo. Poi ed è un liberale. Esatto. Non è vicino alle BR. Non lo dice con simpatia alle BR. È semplicemente una persona che fa un discorso serio, che fa un discorso da storico, mettendo insieme i documenti, le testimonianze, e riesce a fare, secondo me, un lavoro splendido, bypassando tutto questo complottismo che è, voglio dire, è secondo noi, secondo me è un elemento vicino a quel discorso di vittimismo italiano che tante volte è stato analizzato su Giap e che tante volte è stato tirato in ballo in merito al confine orientale, cioè tutto è accaduto perché qualche potenza straniera cattiva ce l'aveva con noi. In realtà dovremmo, insomma, vedere la nostra storia nazionale con un po' meno di autosoluzione, ecco. Aggiungo una cosa io, se posso. In generale, diciamo, principio metodologico, dobbiamo sempre tenere presente questo, che esistono le fonti primarie, che sono i documenti, cioè la testimonianza contestuale proveniente dal fatto narrato, e ci sono le fonti secondarie, cioè le elaborazioni, le interpretazioni delle fonti primarie. Allora, un primo, diciamo, quando non si ha accesso ai documenti, perché poi questo è un grosso problema, noi abbiamo archivi che sono tuttora segretati, e quindi l'accesso alle fonti è una questione. Allora, quando non si riesce ad avere accesso alle fonti primarie, già una prima idea ce la si può fare leggendosi non una sola ma più fonti secondarie, e se il modo in cui questi documenti non vengono, cioè le fonti primarie non vengono interpretati ma proprio citati, è diverso, allora già quello è il sintomo che c'è un problema. Visto che è stato citato Barbero e visto che è un tema del festival, Piero Puric insieme ai suoi compagni di band ci ha fatto uno spettacolo venerdì sera, andatevi a vedere le conferenze che Barbero ha fatto quest'anno al Festival della Mente, sempre un ciclo di 3 lezioni come lui fa tutti gli anni, a tema Prima Guerra Mondiale. Ora, siccome lui è una persona seria, non è un materialista storico, è un liberale, ma fa il suo mestiere come va fatto, tutta l'impostazione che lui dà alle conferenze è quella di mettere a tema e problematizzare l'assunto che invece nel discorso istituzionale attorno al centenario della Grande Guerra è assunto acriticamente, e il dogma è: la Prima Guerra Mondiale è stato un momento di unificazione dell'identità nazionale. L'identità nazionale si è formata attorno alla vittoria, si è consolidata attorno alla vittoria, e Barbero provocatoriamente apre il suo ciclo di conferenze dicendo: ma un'identità nazionale che si consolida attorno a una vittoria in guerra non è detto che sia un bene. Già questo primo passaggio è un enorme salto in avanti rispetto alla retorica dalla quale siamo circondati, e che non è una retorica soltanto dei fascisti, è una retorica assunta tout court e bipartisan dal discorso istituzionale di questo paese. Scusate, vorrei aggiungere una cosa, perché questo caso qui mi riporta alla mente un caso di cui ci siamo occupati, che è quello della foiba di Rosazzo, della cosiddetta foiba volante del Friuli, perché a un certo punto in Friuli era spuntata dal nulla e poi continuava a vagare per il Friuli una foiba da Como di 800 posti cadavere, che in realtà non è mai esistita. Ma perché dicevano che c'era questa foiba? Perché spulciando negli archivi avevano trovato il rapporto di un informatore della polizia che diceva: dalle mie parti corre voci che ci sia una foiba dove hanno ucciso almeno 800 persone. Ora, io credo che il meccanismo sia lo stesso di questo signore, il culto del documento unico. Ma se appunto se si legge Mark Bloch, spiega che i documenti vanno verificati, confrontati e contestualizzati, che questo discorso va fatto insieme. Cioè, tu puoi verificare un documento solo se lo confronti e lo contestualizzi con altri documenti dello stesso periodo storico. Aggiungo una cosa io su questo, no? Questo è un caso, il caso della foiba volante del Friuli orientale, no? È stato una delle bufale che Nicoletta Burbacchi ha sbugiardato con un intervento concreto anche fatto sul territorio, intervenendo su come la stampa locale, cioè il Messaggero Veneto, il quotidiano di Udine e dintorni, aveva montato questo caso, e ogni giorno dovendo riempire pagine e pagine di sensazionalismo su questa presunta foiba erano arrivati a intervistare personaggi veramente inquietanti o ridicoli, o inquietanti e ridicoli. Ad esempio, avevano intervistato un tizio che era presentato come un esperto di recupero di reperti di guerra, e questo qui gli avevano dato campo libero, e in questa intervista aveva detto: io in pochi giorni con i miei volontari troverò questa foiba, perché noi siamo questa associazione, no, di recuperanti, che eccetera eccetera. Nicoletta Burbacchi è andata a cercare chi era questo tizio che era presentato in modo neutro, l'ha trovato vestito da SS su Facebook, no? Allora immediatamente intervenuti: adesso intervistate pure i nazisti, cioè, e poi la prossima cosa sarà, eccetera. La cosa fantastica è il Messaggero Veneto era arrivato a dei livelli per cui aveva pubblicato la foto di un casolare in campagna e il titolo era: il casolare in cui non sono avvenuti massacri. Perché, cioè, loro pensavano, questa cosa era stata smentita, ma loro dovevano comunque dare una notizia, detto: questo è un casolare, cioè, quindi potevano mettere qualunque, anche casa mia, no? La cosa, il bello è che tutto questo è partito da un uso manipolatorio da ambienti della destra friulana e giuliana un uso manipolatorio della contestualizzazione di un monumento, di un documento, come appena detto Tommaso. In cosa consisteva questa cosa? Era stato trovato negli archivi della Farnesina, cioè negli archivi del Ministero, era stato trovato appunto questo dispaccio che riportava un si dice da parte di un tizio, probabilmente una delle tantissime segnalazioni che arrivavano nei giorni dell'immediato dopoguerra, che si stava appunto facendo ricognizione di quel che era successo, eccetera, eccetera, poi soprattutto sul confine orientale, figurarsi, e che probabilmente non era nemmeno stato preso in considerazione, appunto una delle tante cose che si dice, ed era nell'archivio della Farnesina da decenni. Automaticamente è stato presentato da questi ricercatori di destra che l'avevano trovato e che poi appunto l'hanno passato ai giornali, da documento probabilmente del tutto inattendibile, all'epoca nemmeno cagato, trovato nell'archivio della Farnesina, automaticamente è diventato un documento della Farnesina. Quindi attenzione alla cosa, io ti dico documento della Farnesina, sembra un atto ufficiale del Ministero, quindi uno pensa il Ministero ha fatto un'inchiesta e lì risulta che ci sia una fossa con dentro 800 persone, non ti chiedi nemmeno, ma 800 persone chi? Chi sono questi qua? Nomi e cognomi, cioè nei paesi intorno non risultava che mancassero 800 persone, questi non avevano parenti, non aveva nessuno che avesse denunciato una scomparsa, era una cosa del tutto campata in aria, tra l'altro una fossa con dentro 800 persone deve essere ben grossa, eppure non la trovavano, e quindi per il fatto che non la trovavano continuavano a cambiare di posto, dicevano no, non è lì, è lì, per quello l'abbiamo ribattezzata su Giappa la foiba volante, no? Dopodiché questa cosa è stata completamente sbugiardata, la cosa fantastica è che è stata sbugiardata anche dalla procura di Udine in una conferenza stampa del procuratore che di cognome si chiama Tito, quindi è stata una cosa... però quello è stato un caso veramente da manuale di intervento di questo gruppo di lavoro di Coletta Burbacchi che in alcune settimane proprio di intervento da guastatori hanno demolito una campagna stampa che stava per imporre nella vulgata del paese l'esistenza di questa foiba che non è mai esistita, ecco. Quindi, cioè, bravi cazzo. Ecco, ci hanno lavorato soprattutto i compagni e le compagne della colonna triestina, devo dire, in Friulana, perché volevo dire una cosa, ecco, teniamo presente una cosa, visto che questo è un momento di autoformazione conflittuale, eccetera, che appunto, mentre è diventato molto chic dagli anni 90 in poi dire ai fascisti prego, si sieda pure qui con me, discutiamolo, lei è un portatore della sua verità, ma io le credo, perché non dovrei crederle, signor Sgozza Ebrei, Benito Sgozza Ebrei, perché non dovrei crederle? Cioè, perché non dovrei crederle? Ma ce lo vogliamo dire che questi mentono come respirano? Cioè, ce lo vogliamo dire che sono fascisti? Ce lo vogliamo dire che una tipo, una consigliera provinciale delle mie parti a Trento, che dice che i bambini stranieri gli rubano l'altalena? Cioè, che questa gente... io parto dal presupposto che questi mentano. Anche, voglio dire, quando mi trovo davanti, mi è capitato presentando una proposta in una commissione del comune di Trento, e ci trovo davanti un ex missino, adesso riciclatosi in una delle civiche del centrodestra, che mi dice... Ma no, perché i partigiani comunisti hanno ucciso alla fine della seconda guerra mondiale 50.000 persone? Chi lo dice? È Pirina nei suoi libri. Pirina era un neofascista che si stampava i libri con i suoi soldi, perché c'erano i soldi di famiglia, si è fatto la casa editrice, e questo si stampava i libri in cui c'era scritto pure che Franco Basaglia era un ex repubblichino. Ma voglio dire, quindi partiamo dal presupposto che... Voglio dire, noi siamo una cosa, loro sono un'altra, perché sennò viene fuori come facendo la tavola rotonda su Wikipedia, mi è capitato la tavola rotonda sulla rivista Diacronie, mi è venuto fuori Yolanda Pensa, questa persona molto importante dentro Wikipedia, dentro Wikimedia, una che organizza i convegni, che mi dice no, ma vedi che attraverso la libera un tempo... si credeva che gli esseri umani si differenziassero per intelligenza, per natura, in base alla misurazione del loro cranio, E adesso non è più così, e per questo bisogna liberamente discutere cercando la verità. E io gli ho risposto, sì, è vero che la conoscenza umana si evolve, appunto ci vogliono le regole dell'onestà intellettuale, ma c'è chi a queste regole non ci sta, tant'è che quelli che misuravano i crani non è che ci siamo messi a fare una libera discussione, ci abbiamo fatto una guerra mondiale, tutte le lotte di liberazione del terzo mondo, voglio dire. Non è che, voglio dire, c'è un conflitto. È quello con i fascisti, mentre voglio dire, con un normale, la differenza tra un fascista e un normale conservatore, quindi per me la differenza tra avversario politico e nemico è proprio che io col fascista presuppongo che lui l'onestà intellettuale non ce l'abbia. Ci sono interventi? Ci sono altre domande? Se no dico una cosa io. Allora, non voglio, siccome non vi vedo, urlatemi se c'è qualcuno che vuole intervenire al mio posto, se no vado avanti a parlare. Allora, una delle domande che più spesso ci hanno fatto in questi mesi in cui siamo andati a presentare la guida, questo chi lo dice perché è in giro, in vari contesti, dalle sezioni dell'AMPI a realtà di movimento, a collettivi neonati, insomma la guida ha effettivamente suscitato molto interesse. Allora, una delle domande, specie dopo il 4 marzo, una delle domande più frequenti è quella relativa al che fare. Quindi un po' il sottotesto è, va bene, voi ci avete dato un metodo, adesso noi come lo possiamo declinare? Posto che questo è il classico ambito in cui l'intelligenza collettiva deve mettersi al lavoro, perché non esiste una risposta univoca, io solitamente dico due cose. La prima cosa che dico è: sono sicuro di una cosa che non dobbiamo fare, cioè trattare da imbecille chi finisce vittima dell'immaginario pubblico inquinato sui temi di cui ci occupiamo. Allora, se noi questi cominciamo a trattarli da webeti, da idioti, eccetera, l'unico effetto che noi otteniamo è farli chiudere ancora di più. Non i fascisti, ma le loro vittime in questo caso. Esatto, cioè io sto parlando di chi non intenzionalmente spaccia questa roba, ma di chi ci è immerso e del tutto inconsapevolmente finisce per abbracciare l'idea della memoria condivisa, per esempio, l'idea per cui un morto è sempre un morto e quindi la violenza va condannata a prescindere. No, la violenza va studiata, questo è il punto. Allora, se questo tipo di se questa categoria di persone, che è immersa nella retorica nella quale siamo immersi noi tutti, viene maltrattata alla Burioni, per intenderci, l'unico effetto che otteniamo è la chiusura rispetto ai nostri argomenti. Qui in sala c'è, ed è appena intervenuto, un ninguno che ha scritto sui complotti cose non dissimili. Ecco, allora, quindi, sicuramente la cosa da evitare è di parlare della storia della resistenza e degli usi della memoria in modo professorale, cattedratico e strafottente. È una cosa banale, ma ogni tanto tocca anche ripeterla, perché non è ovvia, visto che, diciamo, se noi guardiamo ai media mainstream, il tipo di debunker che va per la maggiore è il Burioni, variamente declinato nelle diverse aree di competenza. L'altra cosa che dico è una cosa che ho fatto io. la cosa che ho fatto io è dire le cose che ho imparato stando in Nicoletta Bourbaki in un contesto nel quale non ce le si aspetta. Questo contesto è il discorso ufficiale delle celebrazioni istituzionali del 25 aprile. Per una serie di circostanze a me è stato chiesto di tenere il discorso conclusivo delle celebrazioni del 25 aprile a Pavia, quindi io ho parlato in piazza di fianco al sindaco, al prefetto e alle forze armate in alto uniforme, e ho fatto tutto un discorso contro la memoria condivisa. Ho fatto tutto un discorso nel quale citavo, chiamandoli per nomi e cognomi, i Salvini e i Fontana di turno, dicendo come loro hanno fatto un uso propagandistico delle bufale che circolano sul fascismo. Quindi ho attualizzato il discorso sulla resistenza, sulla memoria conflittuale dei mesi della liberazione, in un contesto dove di solito la retorica che si ascolta è quella dei fautori della memoria condivisa, per cui il conflitto è relegato al passato, si è concluso con il 1945, e noi tutti ci dovremmo riconoscere, secondo i fautori della memoria condivisa, nel paradigma costituzionale, nei valori della Costituzione. Questa cosa semplicemente non è vera, cioè non è così, non è proprio così. E tra l'altro, diciamo, dico anche una cosa in realtà abbastanza ovvia, e cioè che se uno assume come presupposto del suo ragionamento che il conflitto è finito nel 45, non lo riconosce nelle forme odierne e quindi non riconosce l'urfascismo, il fascismo eterno di cui parlava Umberto Eco. Poi ho fatto tutto questo discorso rivendicando la natura di parte e non assolutamente condivisa del 25 aprile, e la prova che quella roba ha funzionato è stata l'ondata di odio che i leghisti mi ha riversato contro dei mesi successivi. Allora io non potevo prendere la parola in pubblico senza essere stalkato dai Salviners, dai sostenitori di Salvini, che facevano body shaming, tra l'altro, cioè non è che mi attaccavano dei contenuti, dicevano guarda sto cieco, guarda questo che è magro da far schifo, se questi sono i comunisti noi regneremo 30 anni e cose di questo genere. Questa cosa mi è valsa addirittura un'interpellanza in Consiglio Comunale a Pavia, e qui arrivo al punto che volevo sottolineare, nella quale si è detto l'oratore del 25 aprile ha parlato in modo poco istituzionale e scorretto. Allora io ovviamente non sto al Consiglio Comunale, è un attacco al quale io non avrei potuto replicare perché non siedo al Consiglio Comunale. Allora io ho mandato una lettera pubblicata dove dicevo due cose. Dicevo, vabbè, è poco istituzionale, io non faccio parte delle istituzioni, il mio unico dovere è dire la verità. E la seconda cosa era scorretto, va bene, allora scorretto. Io ho fatto un esercizio di trasparenza, di onestà intellettuale, come diceva prima Tommaso. Ho pubblicato l'elenco delle fonti del mio discorso. Aspetto che il leghista che mi ha attaccato porti una fonte, una sola fonte, che smentisce quello che io ho detto e che prova che io ho detto il falso. Ovviamente sto ancora aspettando. Allora, questo secondo me ci fa vedere una cosa al di là del mio caso personale. Questa è stata una tattica che io ho utilizzato. Portare questo discorso che noi facciamo con Nicoletta Bourbaki in un luogo in cui non ce lo si aspetta. Ma questo dimostra una cosa, che quando si fa un discorso circostanziato, quando si fa un discorso corredato dalle fonti, i fascisti e compagnia brutta tendono a scappare, a disertare il dibattito. Allora noi dobbiamo, secondo me, essere forti di questa consapevolezza e non cedere a quella retorica che dice ah, siamo una minoranza, non possiamo fare niente, hanno vinto loro. No, noi abbiamo delle strategie di resistenza. Una di queste è di contrattacco, come si diceva, no? Una uno dei punti di forza che noi dobbiamo sfruttare è mettere in fuga i fascisti nei dibattiti pubblici. Grazie a tutti. Ci sono domande? Vai. Prego. Vieni qua però, che siamo in stream. apprezzo tantissimo il vostro discorso e vi ammiro anche perché io personalmente colpevolmente non trovo mai la forza di impegnarmi come dovrei nei contesti in cui ci sono questi scontri di dialogo, di scontri culturali o di ricerca delle fonti. E la mia domanda è, alla conclusione, Luca, se non ho sbagliato, alla tua conclusione è giusta, mettere in fuga i fascisti nel dibattito pubblico, ma il mio problema, quando il dibattito pubblico è basato sull'urlo, come facciamo? Come facciamo a urlare più forte di loro? Come facciamo a riuscire a usare la pazienza e a descrivere le cose come stanno di fronte a qualcuno che non ci permette di parlare, non ci vuole ascoltare? Spendiamo tutti, direi. Sì, no? Sì, anch'io. Dai, dai, allora. Io ho parlato fino a adesso. No, allora, allora, non lo so. Cioè, io ho un modo. Molti di noi hanno un modo, cioè denunciare il tipo di strategia discorsiva o di strategia urlante che l'avversario adotta e quindi dire con uno di questo genere guardate, additare pubblicamente, no? Dire guardate questo qui come sta reagendo e quindi mettere agli atti che ci sono due approcci completamente diversi al dibattito. Poi ovviamente c'è una cosa, cioè probabilmente non è il problema principale, ma un problema c'è, cioè che se uno guarda ai canali mainstream di dibattito pubblico è molto difficile che un'affermazione sloganistica e un'affermazione fontata siano trattate diversamente, sembra che vengano trattate allo stesso modo, però il dibattito non è tutto quanto nei canali mainstream e dove c'è più spazio di intervento uno può smontare la strategia discorsiva dell'avversario. Poi io ho fatto solo l'esempio del dibattito, ok, dello scontro verbale. Non ho parlato di tutto un problema che invece sembra non esistere perché gli antifascisti salottieri non lo vivono in prima persona, e cioè che i fascisti non si limitano a urlare, ma aggrediscono quotidianamente. Allora, il discorso che ho fatto io, quindi quello nel quale io bene o male mi sto muovendo in questi mesi, in questi anni di collaborazione con Nicole, di appartenenza a Nicoletta Bourbaki, è il dibattito in cui si scontrano affermazioni verbali, enunciati verbali. Allora, ribadisco, uno dei modi che si possono utilizzare per resistere all'urlo è dire guardate che questo sta urlando, perché non è scontata questa cosa. Bisogna affermarle certe cose che a noi sembrano ovvietà. Ricordiamoci sempre, rubo l'affermazione, mi approprio di un'affermazione che fa Uming spesso. Ricordiamoci sempre che, per esempio, nel dibattito sui social network, noi non stiamo interloquendo soltanto col nostro avversario dialettico, ma stiamo lasciando traccia pubblica della nostra discussione. Quindi ci sarà sempre qualcuno terzo rispetto al nostro interlocutore che ci legge. E a questo terzo deve essere messo in condizione di capire la differenza tra noi e loro. Posso aggiungere una cosa? No, volevo aggiungere una cosa sul dibattito. Noi ad esempio, in quanto Nicoletta Bourbacchi, abbiamo una pagina Facebook, ma non discutiamo su Facebook perché cioè, non vogliamo fare la gara di insulti a chi urla più forte, ma vogliamo portare il dibattito su, vogliamo che sia costruttivo, quindi si discute in altri ambiti, ad esempio su JAP dove pubblichiamo i nostri articoli, o in assemblee pubbliche dove comunque chi interviene porta contenuti a cui rispondiamo con altri contenuti. Proprio rifiutiamo il fatto di urlare più forte degli altri e di fare questa comunicazione che è distruttiva comunque. Ecco, io invece ci tenevo a puntualizzare un altro aspetto, che è quello dell'ideologia dello Stato-Nazione. Io credo che quando il nemico alza la voce, quando il nemico attacca, l'errore che fa buona parte della, come dire, dell'antifascismo salottiero, diciamo, è quello di alzare le mani, dire va bene appena si tira in ballo gli italiani, i poveri italiani vittime delle foibe, l'interesse del paese, la nazione, la patria. Tutte queste cose qui, cedere, alzare le mani di fronte a questi concetti qui, vuol dire arrendersi al nemico, vuol dire accettare i presupposti ideologici dello Stato-Nazione e, come spiega bene Ocalan nel Confederalismo Democratico, l'ideologia stessa dello Stato-Nazione è essa stessa le basi del fascismo. Lo Stato-Nazione si pone come unità di territorio, popolo, Stato, lingua, religione, cultura. Se non è già un totalitarismo questo, che cos'è? E quindi in questa cosa qui noi dobbiamo avere la capacità di dire calma, quando dici noi italiani, ma di chi stai parlando? Ma noi chi? Per me la vita di un italiano e quella di un non italiano valgono esattamente la stessa cosa. Questa cosa già qui mediamente li fa scaturire. Non me ne frega niente se sono italiano o no. Le vite degli esseri umani valgono lo stesso. Perché? Perché se devo definire una mia identità come comunità politica, non è la nazione, ma è la Repubblica, che sono due cose diverse. Perché la Repubblica sono una serie di valori che abbiamo fissato per costruire una società ideale che vogliamo costruire nel domani. La nazione è un'origine mitica nel passato. Io metterei questa differenza qui. E il fatto che negli ultimi decenni i rappresentanti delle forze politiche cosiddette di sinistra abbiano accettato la sovrapposizione di Repubblica e Nazione non ha reso i nazionalisti meno pericolosi, ha fatto cadere quelle che erano le distanze tra il nostro paese. Pasolini, quando parlava del Partito Comunista, parlava di un paese onesto in un paese disonesto. Io allargherei quel campo, perché non c'era solo il Partito Comunista, cioè parte tutta la storia dell'autonomia, ma anche tutta la storia di un riformismo socialista con Matteotti che era contrario alla Grande Guerra, anche tutta la storia di buona parte del popolarismo cattolico, che era comunque il nostro paese, che si basava su valori all'interno dei quali possiamo essere, appunto, avere idee diverse, ma essere avversari e non nemici. E invece, dicendo, parificando fascismo e antifascismo, sdoganando la nazione, hanno tradito il nostro paese. Perché guardate, qui non siamo più negli anni 70, non siamo più la polemica tra PC e autonomi o tra DC e PC, qui siamo entrati in un'altra dinamica, qui è proprio uno scontro su quello che deve essere, su quella che deve essere la nostra identità collettiva, su cui non è possibile mediare. Non è possibile mediare tra chi pensa ad una comunità basata sull'etnia, sulla religione, sulla tradizione, qualunque cosa siano queste invenzioni, e chi invece vuole una comunità basata su dei valori. Su questo nessuna mediazione è possibile, e bisogna esplicitare questa distanza. Questo è l'obiettivo politico, secondo me, centrale a cui arrivare, e su cui si può allargare il campo dell'antifascismo, perché si può far capire anche a tanti moderati, uno, qual è la distanza, appunto, tra chi difende i valori della resistenza, i valori che in fondo sono sempre quelli dell'illuminismo, le forze della ragione di Marc Bloch, e chi è invece il fascismo, e su questo si può dimostrare che chi ha gestito le forze riformiste, democratiche, tra virgolette, eccetera, ha tradito invece proprio questo bagaglio di storia. Io credo che questo sia l'aspetto fondamentale, sancire la distanza e quindi criticare nettamente l'ideologia dello Stato-Nazione, perché se non lo facciamo partiamo perdenti. Fare qualche esempio di dell'attività, cioè degli argomenti che utilizzi per fare l'attività con i ragazzi seguendo lo schema del laboratorio, perché sono insegnante, naturalmente mi interessava. Sì, giusto al titolo di esempio. Ecco, qui ne riportiamo alcuni. In realtà gli esempi puoi pescare qualunque argomento tu voglia. Io appunto ho dato i quattro tipi di sito. Su, in italiano, oltre che la Treccani, di siti attendibili non si trova molto altro. Quindi devi vedere sulla base del programma e sulla base di quello che offre il web. Io direi che in questo modo si riesce a fare. Per esempio, l'ultima che ho fatto di WebQuest è sulla caccia alle streghe. Ho messo due voci della Treccani, Wikipedia, una voce della Treccani, Wikipedia, un altro testo narrativo, un sito di narrativa sostanzialmente per far vedere che non è una ricostruzione storica, e poi ho trovato il numero della rivista del CICAP sulla caccia alle streghe e ho messo quello sostanzialmente per farti un esempio, ma appunto se ne possono trovare 100.000 per fare il laboratorio. Ecco, invece secondo me è fondamentale educare al vedere, appunto, ad andare oltre queste narrazioni come la nazione. Per esempio, ci sono alcuni accorgimenti della serie La mappa dell'impero austro-ungarico, la mappa etnico-linguistica, che la trovi su Wikipedia in inglese, dell'impero austro-ungarico nel 1914, e già quella ti sfata l'idea che i popoli debbano vivere ciascuno nel proprio recinto. Poi, se vai a vedere un po', se approfondisci la storia dei nostri territori di frontiera, sia il confine orientale che il Trentino da me, ti viene fuori per esempio che mio bisnonno, io sono mezzo trentino e mezzo emiliano, mio bisnonno a parte trentina indossava la divisa dei Kaiserjäger, ha combattuto contro l'esercito italiano ed era un suddito dell'imperatore d'Austria-Ungheria di lingua italiana, che di fronte all'esercito italiano nel 1915 era convinto di difendere a casa sua, e benché quello fosse, tutti i partecipanti a quella guerra fossero imperialisti, effettivamente come posso chiamarla quella dell'Italia nel 15 se non aggressione? Allora mi collego un attimo rapidamente, perché giustamente mi chiedono anche di riportare un esempio pratico di come Nicoletta Burbacchi, ma anche il metodo storico e dello smontaggio della critica dei falsi storici può tornare utile anche in ambiti di attivismo immediato nel presente che viviamo, in quello immediato. Adesso giustamente Tommaso accennava a degli aspetti che fuori da una certa area geografica, segnatamente quella appunto del confine nordorientale, spesso sono anche ostici da affrontare, che però un po' tutti si trovano di fronte prima o poi. La questione delle foibe, la questione dell'esodo dell'Istria, quante volte ve lo siete sentiti ripetere, e le foibe, e tutto quello che hanno dovuto subire i nostri italiani solo perché erano italiani, sono state vittime della barbarie comunista e titina e via dicendo. Allora, durante la presentazione io ero un po' ai margini, per cui non ho seguito tutto, però più di una volta ho sentito che si faceva riferimento al lavoro che Nicoletta Burbacchi ha fatto soprattutto nei primi tempi di attività proprio sui temi del confine nordorientale, della questione delle foibe e via dicendo. La settimana scorsa, penso l'avrete visto un po' tutti, c'è stata una manifestazione a Trieste, una manifestazione che è andata veramente al di là, ha esondato qualsiasi più rosea previsione. In un momento del genere nessuno si aspettava che una città come Trieste si mobilitasse in quel modo con migliaia di persone, forse quasi 10.000 persone, a scendere in piazza per una manifestazione cittadina, tra l'altro, non convocata con un respiro nazionale, per rispondere invece a una chiamata nazionale fatta da Casa Pound Italia in una data emblematica, il 3 novembre, il giorno immediatamente precedente al 100° anniversario della cosiddetta vittoria italiana nel primo conflitto, nella prima guerra mondiale. Allora, dentro quelle assemblee che hanno costruito la contromanifestazione di sabato scorso, emergeva anche una serie di sottovalutazioni, ad esempio del significato simbolico, per cui Casa Pound il 3 novembre, ma poi il giorno dopo Mattarella e tutto l'apparato governativo, eccetera, avrebbero comunque ripreso il significato simbolico di quei giorni, riproponendo esattamente la categoria di nazione che adesso giustamente Tommaso spiegava e dimostrava che è sempre di destra, è sempre reazionaria, è sempre produttiva di un discorso che inevitabilmente ti porterà su dei terreni che sono dei terreni fetidi, che puzzano di guerra, che puzzano di divisione, che puzzano di odio e di razzismo. Noi questo lo conosciamo bene perché appunto veniamo da territori che originariamente, fino al 1918 appunto, Trieste non era mai stata italiana, non lo era mai stata. Manco Trento. Cioè, quindi, se voi pensate, la storia in fondo dell'umanità, 100 anni non sono nulla, non sono veramente nulla, e però in 100 anni si è riusciti a costruire intorno a questa città singola, intorno al suo territorio, una serie di retoriche che sono molto pericolose, che ormai però sono diventate anche senso comune per un sacco di gente, che non necessariamente è gente di destra, che non necessariamente è gente razzista, che non necessariamente è gente che sarebbe disposta a dire io mi sento patriottico. Allora, quello che è successo a Trieste è stato una capacità di mobilitazione incredibile da parte di una rete moltitudinaria di collettivi, di organizzazioni. C'è stato anche un segnale in controtendenza da parte di organizzazioni che in passato avevano fatto scelte molto differenti, prima di tutto la CGL, l'AMPI di Trieste, perché poi gli AMPI locali, anche qua è un capitolo che andrebbe aperto, realtà diversissime, qua tra di noi ci sono rappresentanti di sezioni locali di AMPI che però sanno anche di come sia complessa quella realtà, però si è riusciti ad evitare il meccanismo che si era verificato l'anno scorso rispetto a Macerata, dopo l'omicidio Traini, quello in cui appunto tutta una parte di sinistra più istituzionale, più classica, aveva fatto la scelta di dire no, non andiamo più in piazza, e in questo modo di fatto poi si era ritrovata con una piazza che l'aveva scavalcata completamente ed era stata assolutamente grande. Questa volta a Trieste innanzitutto c'è stato questo. C'è stato da parte di Nicoletta Burbacchi, che appunto con le simbologie del confine orientale, con i temi del nazionalismo e via dicendo, un po' ci masticava già da un po', il tentativo di mettere a disposizione alcune cose a quel movimento che si stava dando in città, e queste cose erano appunto una lettura alternativa della prima guerra mondiale, una lettura alternativa che prima di tutto segnalava alcuni aspetti storici di quel conflitto che vengono totalmente sottovalutati, non solo il fatto che è stato un enorme massacro inutile in cui povera gente è stata andata a farsi massacrare su una guerra che avevano deciso altri, che invece poveri non erano per niente, ma è stato anche il fatto che sono stati divisi popoli che stavano assolutamente, convivevano assieme sugli stessi territori parlando lingue diverse, perché sostanzialmente il punto era questo. L'impero austro-ungarico era un impero dispotico, era un impero sicuramente, non era una democrazia illuminata, nulla di tutto questo, però sicuramente garantiva perlomeno su quel territorio la possibilità di mantenere la propria cultura, la propria lingua, di avere scuole di insegnamento nella propria lingua, di avere l'accesso agli atti amministrativi nella propria lingua, eccetera. Tutto questo con la fine della prima guerra mondiale, l'arrivo dell'Italia finisce e inizia appunto un momento in cui l'Italia su quei territori significa innanzitutto un impoverimento economico, perché Trieste fino a quel punto era il principale porto di un impero enorme. Da quel momento in poi diventa semplicemente uno di 24 porti di una penisola che aveva un'economia assolutamente arretrata. Non potete immaginare cosa significa questo sotto molti punti di vista. Ma la prima guerra mondiale è stata anche la guerra dei disertori, è stata la guerra di persone che si sono sottratte alla guerra con ogni mezzo necessario, di persone che hanno pagato con la psichiatrizzazione il fatto di non volere finire per essere carne da macello. È stata l'epopea di persone di ogni estrazione, ma soprattutto dei ceti sociali più deboli, che hanno in mille forme trovato le proprie forme di resistenza e di sottrazione ai meccanismi della guerra. Allora, tutto questo per dire che maneggiare la storia, affrontare il tema dei falsi storici, affrontare il tema delle false retoriche, smontare le retoriche nazionalistiche è assolutamente attuale oggi, soprattutto in un momento in cui ci troviamo con un riemergere preoccupantissimo, apparentemente fuori tempo, fuori dalla storia, eccetera, che però sta riprendendo piede, che ci sta riportando a risentire di nuovo parlare di sovranità nazionale, di patria, di patria. Ce lo siamo sentiti ripetere persino dopo la manifestazione. C'è stato un editoriale di Paolo Rubens che in un qualche modo, un po' furbescamente, diceva: la patria a cui facciamo riferimento oggi dovrebbe di nuovo esistere e dovrebbe distinguersi da quella di Casa Pound per il fatto di non essere razzista. Io non credo che sia sufficiente, perché nel momento in cui comunque tu riproponi quel meccanismo, stai riproponendo un meccanismo di divisione, di odio e implicitamente di razzismo. Okay. Un saluto e ricordiamo del libro, no? Vai Francesca. Ah, vado io. Vai. Allora, il nostro ebook, ex ebook, Rotterdam, che e il libro cartaceo. Il libro cartaceo, lo trovate al banchetto, l'offerta è libera, consigliamo 5 euro come minimo. Grazie.